Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Oh, bene, anche oggi la guffata maltempo l'abbiamo presa, ma più che una guffata è una concretezza. Però arrivano anche le belle notizie. Sempre piacevole ricevere il caloroso abbraccio di un compagno, di un amico, compagno di viaggio e di console. È arrivato in studio, beh, certo per motivi di rassegna stampa, ma anche per motivi di console, Andrea Utensili, detto Pelé. Buongiorno Andrea. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e tutti. È un appuntamento che non potevo mancare. Volevo parlare del Fondo Comini e di questa esperienza che ci coinvolge insieme. È un'esperienza tra l'altro che coinvolge anche altri ospiti co-protagonisti. Tutto ciò ha portato un grande entusiasmo e un piacere nello stare assieme, coinvolgendo sempre più ospiti a loro volta. Saranno e sarete protagonisti portando rigorosamente vinile. Sì. Abbiamo trovato un motivo di aggregazione con filo conduttore, passione comune per la musica, che poi si trasforma anche in convivio e piacere di restare assieme. Il nostro entusiasmo è talmente intenso che abbiamo deciso di essere presenti lo stesso nonostante il maltempo. Anche se piove, adesso vediamo come ci organizziamo. No, ci siamo, vediamo che ci siamo. Poi il DJ set lo faremo, non so, con un keyway, con l'ombrello. Mettiamo in protezione la console stessa. No, c'è da dire due cose. Fondo Comini è un posto piacevole, c'è un palco dove spesso ci sono concertini, si beve. L'orario per questa kermesse è l'aperitivo, che è già comunque una cosa diversa dalle nottate con la musica. E poi l'ultima cosa è il vinile, perché il vinile ci riporta indietro e ci dà la possibilità di proporre pezzi rari, sì, cose strane. E poi perché il vinile, insomma, è uno strumento duraturo, al contrario del CD che dura 20 anni. Il vinile mediamente dura 100 anni. È un tutti i tempi anche come emozione, ma quello che vogliamo sottolineare è il piacere di conoscere nuove amiche, nuovi amici. Alcune ascoltatrici e ascoltatori sono passati per farci compagnia, oltre che per condividere la musica e anche l'aperitivo, insomma, la possibilità di un buon bicchiere di vino, una birretta c'è sempre e comunque lo sprizzetto dell'aperitivo non manca, di certo. Aggiungiamo anche la possibilità di trovarci nonostante il maltempo, la bellezza di poterci trovare dalle 18 alle 21. Allora, trovo compagni di viaggio meravigliosi, sto bene, posso mettere musica in vinile, motivo di aggregazione, l'orario di chiusura è intorno alle 21, così posso andare a letto a un orario umano. Beh, cosa succede? Piove, no? In continuazione. il posto è, insomma, via Fioravanti, dentro la Bolognina, sì, facilmente raggiungibile, le cucine popolari lì di fianco, insomma, i campi da calcio, insomma, è un posto accogliente con bambini, famiglie a quell'ora. Poi e poi la possibilità per i più giovani di potersi distrarre con il parco giochi, con i campetti, il playground da basket, insomma, veramente Giove Pluvio, fa il miracolo. Soffiamo, se ne vanno le nubi. Però ricordiamo che sarà fino al 31 luglio. Oh, che piova ogni mercoledì, poi no, Beh, un incontro non inficia l'altro, sicuramente una cosa non esclude l'altra. In mezzo scorre il fiume. Se siete dalle parti di confine tra Emilia e Romagna, grazie all'edizione numero 5 di In mezzo scorre il fiume, questa sera alle ore 17:30 ci sarà la visita nella splendida chiesa di Santa Maria in Regola e nel chiostro alle 18:30 il concerto in solo di Riccardo Tesi. Conosco Riccardo Tesi grazie a un disco in collaborazione con Vaillant e il grande Trovesi. Resto affascinato dalla sua capacità di unire tradizione, sonorità jazz e capacità emotiva estremamente forte di portare in sonorità, se vogliamo, atipiche, qualcosa che la legano al contempo e, perché no, anche in proiezione di sguardo di percorso oltre. Ho contattato Riccardo Tesi, che ribadisco sarà questa sera alle ore 18:30 in concerto in solo, tradizionale e contemporaneo. Mediterraneo, ma vi sarà legato all'arte la visita a Santa Maria in Regola alle ore 17:30. Il chiostro di Santa Maria in Regola è in via Cosimo Morelli 8 in quel di Imola. Per la rassegna In mezzo scorre il fiume. Ho contattato Riccardo Tesi, quindi metterò una base tratta dal suo disco Colline con Vaillant e Trovesi e sentiamo appunto la presentazione con Riccardo Tesi, organettista, per quanto riguarda l'incontro di questa sera e concerto. È la quinta edizione In mezzo scorre il fiume, il protagonista per mercoledì 3 luglio in quel di Imola, visita Santa Maria in Regola in un contesto artistico e naturale veramente molto suggestivo, e con noi Riccardo Tesi, al quale do il buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori. Cosa ascolteremo in questo solo e soprattutto su un palcoscenico così particolare, Riccardo? Beh, durante il concerto in solo, a parte alcune estratte del mio ultimo album La giusta distanza, suonerò alcune delle composizioni che hanno caratterizzato il mio percorso musicale nella loro versione originale, perché molto spesso appunto i brani nascono sul mio strumento, sull'organetto diatonico, e poi quando anche nei dischi vengono arricchiti dalla presenza di altri strumenti. Ecco, qui in questo spettacolo mi piace proprio fare tornare all'essenziale, proprio là come sono nati. È un viaggio attraverso un po' il mio mondo musicale. Suonerò quasi esclusivamente composizioni mie per mostrare un po' il percorso che ho fatto su questo strumento tradizionale che io ho preso dalla tradizione, che poi l'ho portato in altri mondi. Il solo non vuole inganni. Perché? No. Beh, è una bella prova anche per me, però è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Uno, per la libertà che questa formula ti offre, e due, perché sì, è veramente un altro aspetto più intimo della mia musica, ma al quale sono molto legato. In un palcoscenico molto particolare, com'è il dialogo quando si suona in questi posti così suggestivi? Beh, i posti ti portano a suonare in maniera anche diversa, adattandoti un po' al contesto. Mi è capitato di fare musica sulle Dolomiti, suonare in posti molto strani, e devo dire che ogni volta dà un altro mood alla tua musica, ed è interessante interagire con i luoghi. Valenciane da pomodoro, ciambolle de patate, zucchero mio di sonni moluna. Il suo ultimo ultimo disco, Una giusta distanza, le ispirazioni di Riccardo Tesi, questa sera alle 18.30, in mezzo scorre il fiume, la quinta edizione, Chiostro di Santa Maria in regola, via Cosimo Morelli 8 a Imola. Ne ho approfittato per quanto riguarda questa conversazione con Riccardo Tesi per conoscerne anche così, sollecitando alcuni progetti futuri o di scrittura. Tra l'altro mi è arrivato un suo lavoro da Legea che ringrazio, Un ballo liscio volume 2, e anche in questo caso ne avremo motivo di ascolto in conclusione di questo Last Minute. Oh mamma mia. No, io sono appena uscito, dunque ho pubblicato il mio album, diciamo da solista, però con un sacco di musicisti, che si chiama La giusta distanza. Adesso è appena uscito il disco Un ballo liscio volume 2 insieme a Claudio Carboni, dove c'è Massimo Tagliata alla fisarmonica, c'è Nico Gore al clarinetto, Roberto Bartoli al contrabbasso, sacco di gente, sì, è molto bello. Tra l'altro ho acquistato questo lavoro, sì, è molto particolare, molto bello, sì, un'altra visione. È il numero 2 di un album che avevo fatto mi ero avvicinato al liscio la prima volta nel 94-95 mi sembra, ed era stato un album che aveva avuto molto successo e che era coraggioso, come per un musicista come me che viene da un altro mondo, fare un lavoro sul liscio in un momento in cui il liscio non godeva veramente di una grandissima immagine, un album coraggioso che ebbe anche un grande riscontro di critica. E adesso a 30 anni di distanza abbiamo deciso di riprovarci, questa volta a quattro mani con Claudio Carboni, ma sono molto soddisfatto, fatto di come abbiamo lavorato con Massimo Tagliata, che si è occupato degli arrangiamenti insieme a me e Carboni, poi di questi musicisti stratosferici che sono nel disco, tra cui c'è ospite Paolo Fresu e Tosca, che canta una versione di Romagna Mia, secondo me bellissima, non perché l'abbiamo fatta noi, ma perché mi sembra che sia uscita particolarmente bene. Sì, un altro disco meraviglioso di qualche anno fa è Colline con Vailant, un lavoro. Sì. E Trovesi, il grandissimo Gianluigi Trovesi, che da poco ha compiuto 80 anni, che spero di suonare con lui il prima possibile. E io vi auguro il meglio, perché è importante avere questo dialogo tra la tradizione, la riscoperta, il palcoscenico, l'ambiente, la natura, l'arte, perché la visita a Santa Maria in regola di Imola sarà un valore aggiunto anche per un'intersezione tra le arti. La colonna sonora, è a cura di Riccardo Tesi, Concerto in solo, dalle ore 18.30. Io la ringrazio tantissimo, grazie, maestro. Grazie. Buona giornata. Riccardo Tesi è stato il primo musicista con questo orientamento del folk tradizionale, se vogliamo, vicino a noi, e portato con intersezione jazzistica e di studio contemporaneo che mi ha affascinato. Quindi l'occasione per questa sera, certo, non va a inficiare con il motivo di incontro al Comini Express, per cui che ci sia la possibilità di ascolto come in un giardino con il fiorire di mille fiori. Perdonate la ripetizione, ma l'emozione a volte gioca anche questo nel eloquio per presentare Da in mezzo scorre il fiume, la serata di oggi, Riccardo Tesi, tradizionale e contemporaneo, con la visita a Santa Maria in regola alle 17.30, il concerto ufficialmente alle 18.30. Ricordo che l'ingresso è gratuito. Grazie a Luisa Cottifogli per l'organizzazione della rassegna In mezzo scorre il fiume tra Emilia e Romagna, 8 in punto, linea alla pubblicità, già in redazione con noi Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, e a presto con il Voltiamo Pagina. A proposito del Voltiamo Pagina, ci sarà, visto il maltempo, insomma, motivo di incontro anche letterario al Comini Express questa sera, in quanto i premi, e saranno più di uno, potranno essere ritirati. Via Fioravanti 68, Comini Express, per la serata di Open Deck. A tra poco. Ringrazio Andrea Utensili Pelé per la partecipazione a questo Last Minute, e a breve il Voltiamo Pagina. A tra poco, dopo la pubblicità, vai con l'Ishion.